Ottobre piovono libri. È stata appena inaugurata a Roma, nell'ambito di Ottobre Piovono Libri, la mostra Rosa, riviste, oggetti, sogni, accessori al femminile. La Biblioteca Universitaria Alessandrina presenta quindi carte, giornali, libri e bozzetti, la storia del costume attraverso la storia della moda. Come ci spiega la direttrice della biblioteca, Maria Cristina Di Martino, al microfono di Chiara Di Michele. È innanzitutto una mostra di volumi, di testi a stampa, di immagini, tutti i contenuti esposti sono parte del patrimonio della Biblioteca Universitaria Alessandrina, che gode del diritto di stampa. Lo sviluppo della mostra è chiaramente cronologico, per cui si parte dalle cinquecentine, una del Vecellio, il primo trattato di storia della moda, e un gustoso atlante di ricami, per arrivare poi, decade dopo decade, ad esaminare le varie proposte che sono appunto riviste, che sono volumi a stampa, che sono figurini e oggetti. Per esempio, laddove si parla del collarino della fine dell'Ottocento, accanto è in esposizione un collo di merletto uguale, quindi l'oggetto reale accanto all'oggetto disegnato, riprodotto. Ci sono anche altri oggetti, soprattutto noi abbiamo puntato sugli accessori, guanti, scarpette, cappellini e quant'altro, e ci sono anche in esposizione due disegni di John Guida, che è uno dei più grossi illustratori. E alcune curiosità, appunto questa enciclopedia con tavole relative, non so, a come ci si arriccia i capelli, quindi con varie testine riprodotte, la prima moda balneare, l'abito da ballo. La mostra è allestita presso la Biblioteca Alessandrina a Roma, in piazzale Aldo Moro, e sarà aperta fino al 15 gennaio. Tutte le informazioni su questa e altre iniziative di Ottobre Piovono Libri su www.cepel.it oppure radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco. Ottobre Piovono Libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.